di Simone Spezia. Renzi a Milano per Expo, si fermano i ladri, non le opere. Contestazione dai comitati per la casa. Sul fronte dell'inchiesta arrivano le prime ammissioni degli arrestati. Parlano l'imprenditore e il manager di Expo 2015. Servizio civile per 100.000 giovani l'anno, questa è una delle proposte del Presidente del Consiglio nell'ambito della riforma del terzo settore, tra le altre riordino della fiscalità, potenziamento del 5 per 1000. Oggi test invalsi nelle scuole superiori, proteste in alcuni istituti dove gli studenti hanno boicottato le prove. Approderà nel pomeriggio in un porto siciliano la nave della Marina con a bordo 17 cadaveri di migranti morti durante la traversata nel Mediterraneo. La Lega, Renzi, complice delle morti. Tra poco ospite il ministro dell'Interno Alfano. Qualche ora di attesa e poi Prandelli consegnerà la lista coi 30 preconvocati per i mondiali. Polemica per le dichiarazioni su Chiellini dopo la gomitata romanista Pjanic. Per me non è stato un gesto violento, dice il CT. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti, come sempre, effettogiorno@radio24.it, la nostra email, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il mio account Twitter, Simone Spezia, se volete mi trovate anche là, se volete commentare. Poi ci sono come sempre gli sms, 349-238-6666. Iniziamo dalla visita del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, a Milano per Expo. Ci colleghiamo con Stefano Totoro. Stefano, buongiorno. Buongiorno a te Simone e agli ascoltatori. Matteo Renzi ha terminato da poco il terzo appuntamento della giornata, un intervento al convegno alla Camera di Commercio di Milano. Alla platea ha ribadito di non voler mollare su Expo, sarebbe una sconfitta per il vostro lavoro, ha detto a commercianti e piccoli imprenditori, ma sentiamo un passaggio del Premier. Non lasceremo a chi ruba la possibilità di rubarci anche un pezzo del nostro futuro. Chi ruba va fermato, ma non si fermano le opere, si fermano i ladri. Renzi, lo ricordiamo, è arrivato qui dopo una riunione con i vertici di Expo e con le istituzioni, un vertice molto atteso da giorni, da giovedì scorso, quando sono scattati gli arresti legati all'inchiesta sugli appalti per l'esposizione universale. Di fatto però ci si aspettava qualcosina di più da questo incontro, almeno al momento non è trapelato molto. Ricordiamo che il commissario Sala la settimana scorsa aveva pensato alle dimissioni, ricordiamo anche che a Milano si parla di una nuova Tangentopoli dopo questi arresti e l'Expo è alle porte e i ritardi sono evidenti. A questo si aggiungono appunto gli arresti recenti e Renzi, oltre ad aver chiesto aiuto a Raffaele Cantone, il magistrato, il presidente dell'autorità anticorruzione, non ha parlato di task force che aveva annunciato nei giorni scorsi, non ha parlato di atti imminenti del governo, questo almeno di fronte alla platea degli imprenditori. Si sa che probabilmente oggi verrà nominato il sostituto di Angelo Paris, il direttore degli acquisti di Expo, finito in carcere, e neanche il commissario Sala ha colto questa occasione al momento per parlare dopo il terremoto giudiziario. In conclusione, insomma, è la seconda visita di Renzi a Milano per Expo, la prima volta aveva annunciato una task force operativa di cui al momento non si sa nulla, quelli di oggi sembrano più temi legati alla campagna elettorale che fatti concreti, tutto questo a un anno dall'avvio di Expo. Per il momento è tutto, a voi. Grazie Stefano Totoro. Stefano Totoro che citava già Paris, è una delle due persone che starebbe parlando in queste ore con i magistrati, Raffaella Calandra, per un punto sulla cronaca giudiziaria di queste vicende. Raffaella. Sì Simone, in realtà poi sono anche di più quelli che hanno fatto già delle ammissioni. Oggi gli interrogatori di garanzia si concludono con quello di Antonio Rognoni, l'unico che era stato posto ai domiciliari, quello già arrestato nell'inchiesta sulle infrastrutture lombarde, e il suo interrogatorio di garanzia arriva dopo il giorno delle prime ammissioni di alcuni uomini chiave della cupola degli appalti, come è stata ribattezzata dai PM. Le ammissioni innanzitutto di Sergio Catozzo, l'ex braccio destro di Frigerio, uomo UDC in Liguria, le ammissioni parziali di Enrico Maltauro, l'imprenditore vicentino fotografato con il passaggio delle buste, le ammissioni quantomeno relative alla rivelazione di notizie, come dicevamo, dello stesso ex direttore generale Expo Angelo Paris. Ci sono le foto, ci sono i video, ma ci sono pure i bigliettini e le intercettazioni a conferma della spartizione, quella che ritengono essere stata tale da parte dei magistrati, del grande affare dell'esposizione universale 2015, come degli appalti Sogin e della sanità. In un post-it infatti Sergio Catozzo annotava le cifre cifre ricevute dall'imprenditore vicentino Maltauro, 490.000 nel 2013, 100.000 quest'anno, lo stesso Cattozzo che stabiliva poi al telefono col professore, ossia Frigerio, come era ribattizzato l'ex democristiano dei tempi di Tangentopoli, il calendario stesso dei pagamenti, prima di Natale un centinaio a testa, poi ogni mese, diceva l'8 ottobre 2013 al telefono, cifre in realtà poi difficili da incassare per loro stessi, anche in Svizzera dove avevano una cassetta di sicurezza, perché anche lì diventa dura, lamenta al telefono lo stesso Frigerio, che invece come Luigi Grillo e come Primo Greganti ha negato nell'interrogatorio di garanzia ogni tipo di addebito. Per l'Expo il gruppo puntava di ottenere almeno 1 e 2, come annotato su un altro foglietto sequestrato e poi anche in un'altra conversazione intercettata, ossia 1.200.000, come hanno annotato gli investigatori, era quanto in totale contavano di ottenere dall'imprenditore Maltauro, uno di quelli che doveva essere beneficiato con gli appalti. Quindi questo primo giro di interrogatori segna già un punto importante per l'accusa, perché con queste parziali ammissioni, ma ci saranno poi ulteriori interrogatori già richiesti da molte difese con gli stessi PM, mentre la procura avanza un ricorso al tribunale del riesame contro gli altri 12 richieste di custodia cautelare che il GIP Antezza aveva negato, confermando invece gli arresti soltanto per 7 persone. E per ora è tutto, Simone. Grazie Raffaella Calandra. L'altra inchiesta di queste ore, come sapete, che coinvolge politica, insomma, che incrocia i temi della politica e della giustizia, è quella che riguarda Claudio Scajola. Gli aggiornamenti di oggi riguardano la scorta. Un'inchiesta per verificare l'uso della scorta da parte dell'ex ministro Claudio Scajola è stata avviata su disposizione del capo della polizia Alessandro Panza dopo le notizie emerse nell'ambito dell'indagine che ha portato Scajola in carcere, indagine da cui sono emersi, tra le altre cose, gli stretti rapporti tra l'ex numero uno degli interni e la moglie di Amedeo Matacena, Chiara Rizzo, portata in giro dalla scorta di Scajola da una città all'altra, a volte accompagnata anche a fare shopping. L'indagine della polizia si affianca a quella della procura di Reggio Calabria, che lo stesso argomento dedica una tranche dell'inchiesta sulla latitanza di Matacena e la rete di appoggi su cui ha potuto contare. Questa parte delle indagini adesso rischia di coinvolgere i piani più alti della questura di Imperia, cui è affidata la gestione del servizio scorta di Scajola. Ma non solo, perché sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti ci sono anche i rapporti con funzionari di Stato che sarebbero rimasti vicini all'ex ministro dai tempi del suo incarico al Viminale e lo avrebbero aiutato ad acquisire informazioni riservate, fatto di cui Scajola si vanta durante alcune telefonate finite agli atti di questa inchiesta che si allarga ogni giorno di più. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambia il terzo settore, o meglio, si spera che cambi. Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, lancia su Twitter la riforma che prevede anche un servizio civile universale per 100.000 giovani. Obbligo per le associazioni che vogliono accedere al 5 per 1000 di pubblicare i bilanci online. Un'authority ad hoc, un testo di legge unico, la possibilità per i giovani, anche stranieri, di partecipare a una leva civile universale. Sono queste alcune delle linee guida della riforma del terzo settore lanciata dal Premier Matteo Renzi tramite Twitter. A quell'Italia generosa e laboriosa, Renzi pone però anche la sfida della trasparenza, accolta dal portavoce del forum Terzo Settore, Pietro Barbieri. Da questo punto di vista crediamo che queste organizzazioni debbano, nel loro complesso, le organizzazioni del terzo settore, debbano fare un salto di qualità. Sulla scorta di quello che accade, per esempio, nella cultura anglosassone. Un passaggio cruciale della riforma è il servizio civile nazionale universale. Fino a un massimo di 100.000 giovani all'anno per il primo triennio potranno avere, secondo la riforma, 8 mesi di tempo anziché 12 del servizio militare per operare nel terzo settore, un periodo non inutile ma di formazione anche in Europa. I giovani coinvolti, che possono essere anche stranieri, potrebbero usufruire di crediti universitari, tirocini professionali e vedersi comunque riconosciute le competenze acquisite. Da oggi al 13 giugno è aperta la consultazione online, potete scrivere al governo, che speriamo poi abbia il tempo di rispondere alla valanga di mail. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Arriva anche nelle piazze intanto la campagna elettorale del Partito Democratico. Il punto dunque proprio sulla campagna in vista delle europee con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, proprio così il PD partirà domani e la campagna entra sempre più nel vivo. Uno dei terreni sarà l'immigrazione, tra poco, come hai detto, ospiterà il ministro degli interni Angelino Alfano, ma intanto il premier Matteo Renzi ha detto chiaramente che l'Europa non può salvare gli stati, le banche e poi lasciare morire le madri con i bambini. E queste parole arrivano dopo lo shock, dopo l'ennesimo naufragio, ma ricordiamo anche cosa dicono i piccoli su questo argomento. L'UDC con Antonio De Poli chiede a Renzi di portare la questione a Bruxelles e fa la stessa richiesta a Scelta Civica. Benedetto Della Vedova dice infatti che l'Italia non deve essere lasciata da sola. Lotta invece all'interno del centrodestra tra Forza Italia e il nuovo centrodestra. Questa mattina interviene Gaetano Quagliariello, che definisce il partito di Berlusconi troppo instabile e dice anche sulle prossime alleanze vedremo. Forza Italia invece attacca sulle dichiarazioni dell'ex ministro del tesoro statunitense Timothy Geithner, che praticamente ha parlato di un complotto per far cadere Berlusconi, e allora Renato Brunetta chiede subito una commissione di inchiesta. Ricordiamo poi lo strappo di Berlusconi sulle riforme di ieri, che dice no al ballottaggio per l'Italicum. Da parte del Movimento 5 Stelle invece si chiede di calendarizzare al più presto il disegno di legge anticorruzione dopo l'inchiesta sull'Expo. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, si citava il tema dell'immigrazione, il tutto in seguito anche alla nuova tragedia avvenuta a largo delle coste siciliane, in realtà quasi più vicino alle coste africane. Nino Amadore per gli aggiornamenti, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, il bilancio è ormai, diciamo, quasi definitivo, sono 206 naufraghi salvati dai mezzi dell'operazione Mare Nostrum e 17 i morti. Il naufragio, come ricordavi, è stato a 40 miglia dalle coste libiche e secondo, diciamo, questi numeri e secondo le informazioni raccolte i dispersi potrebbero essere quasi 200, se è vero che sul barcone che si è capovolto ieri erano presenti almeno 400 migranti. Naufraghi e vittime sono a bordo della fregata Gregave e sono diretti al porto di Catania, dove dovrebbero arrivare intorno alle 18. La procura di Catania intanto ha avviato un'inchiesta sul naufragio per capire bene come è andata. Ci sono ancora arresti sul fronte della lotta al traffico di esseri umani. Stamattina a Palermo sono finiti in manette due presunti scafisti che erano sbarcati nel capoluogo siciliano il 2 maggio scorso con 358 migranti, e intanto continuano gli arrivi ad Augusta. Sempre oggi sbarcheranno 295 migranti che sono stati salvati ieri dal pattugliatore sirio, mentre 69 migranti prevalentemente siriani sono sbarcati nella tarda serata di ieri ad Ancona. È tutto. Grazie a Nino Amadore in diretta da Palermo per questi aggiornamenti. Ci scrivete che le morti nel Mediterraneo dimostrano la sostanziale inesistenza dell'Europa. Avremo modo di parlarne più avanti nel corso di Effetto Giorno. Intanto gli aggiornamenti dall'Ucraina. Passata la boa del referendum per l'indipendenza delle regioni di Donetsk e Lugansk, su cui alla fine Europa e Russia hanno deciso di sorvolare, tutti pensano alle presidenziali ucraine del 25 maggio. Ne hanno parlato il presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e il presidente ucraino Turchinov. Ne ha parlato il ministero degli esteri russo per rilanciare la richiesta di una riforma in senso federale dell'Ucraina. Ne hanno discusso a Kiev il premier Yatsenyuk con il ministro degli esteri tedesco Steinmeier, che auspica una massiccia affluenza al voto, mentre però nell'est del paese anche oggi continuano gli scontri tra forze governative e separatisti. Dei risvolti economici di questa crisi si discuterà oggi a Berlino, negli incontri tra la cancelliera Merkel e i vertici delle organizzazioni economiche mondiali, FMI, OCSE, WTO, Banca Mondiale e ILO. Mentre la Russia, prosaicamente ma certo efficacemente, ha chiesto all'Ucraina di pagare in anticipo, entro il 2 giugno, 1,66 miliardi di dollari per le forniture di gas del prossimo mese, in base ai volumi previsti dal contratto. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Il BJP, il partito guidato dal leader nazionalista Narendra Modi, ha vinto le elezioni in India. Per un commento sulla situazione ci colleghiamo con Ugo Tramballi del Sole 24 Ore. Ugo, buongiorno. Buongiorno. C'è chi ha parlato della fine della dinastia Gandhi in politica. Sì, beh, intanto è da vedere che Modi ha vinto, il BJP ha vinto, il Congress ha perso, adesso però bisogna vedere quanto il BJP avrà vinto alla fine dello spoglio e quanto avrà perso il Congress. Sicuramente sarà comunque una sconfitta pesante, forse simile a quella del 1999 quando il BJP appunto andò al potere. Ma questo è nella tradizione dell'India, perché l'India è un paese democratico, quindi la dinastia Nehru-Gandhi esiste per essere amata e detestata dagli indiani. Sicuramente si sta già preparando il prossimo successore, probabilmente Priyanka, la figlia di Sonia, sorella di Rahul che ha perso appunto le elezioni. Sarà anche lei convinta, come è successo col padre e con la madre, a ritornare in politica, e sarà il prossimo candidato fra 5 anni, quando forse, se non fra 5, fra 10 anni, sicuramente un altro Gandhi nero guiderà l'India diventando primo ministro. Ugo, che impatto può avere questo voto sulla vicenda dei due Marò? Credo positivo, perché intanto il BJP certamente è un partito nazionalista indù, ma è un partito che quando ha governato fino al 1999 è stato un partito estremamente pragmatico, pro riforme e con anche molto aperto nei rapporti internazionali. Quello che serviva per la soluzione dei nostri due Marò era un governo che governasse veramente. Adesso dovrebbe il governo del BJP governare, e in più c'è l'elemento che non c'è più Sonia Gandhi, diciamo, al potere. Sonia Gandhi, anche se lei si ritiene assolutamente indiana, ha ragione di sentirsi, lei si sente figlia della madre India, però molto più di quanto non sia una ragazza nata, una donna nata e cresciuta in provincia di Torino, però comunque c'era questo problema italiano, questa sindrome italiana che veniva sempre usata dall'opposizione, rendendola debole, soprattutto quando c'era di mezzo l'Italia. Cioè, per l'Italia sostanzialmente avere la donna italiana più potente del mondo al potere in India non era un vantaggio, ma era uno svantaggio. Ora credo che ci siano le condizioni per risolvere una volta per tutte la questione dei nostri Marò. Grazie Ugo Tramballi. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Renzi a Milano per Expo, si fermano i ladri, non le opere, contestazione dai comitati per la casa. Sul fronte dell'inchiesta arrivano le prime ammissioni dagli arrestati, parlano l'imprenditore e il manager di Expo 2015. Servizio civile per 100.000 giovani l'anno, questa è una delle proposte del Presidente del Consiglio e del Governo nell'ambito della riforma del terzo settore, tra le altre riordino della fiscalità e potenziamento del 5 per 1000. Oggi test invalsi nelle scuole superiori, proteste in alcuni istituti dove gli studenti hanno boicottato le prove. E veniamo al tema dell'immigrazione, Angelino Alfano, Ministro dell'Interno, bentornato ai microfoni di Effetto Giorno, buongiorno. Buongiorno a tutti voi e i vostri radioascoltatori. La prima cosa che le voglio far commentare sono le dichiarazioni appena battute dalle agenzie di Michele Cercone, che è portavoce della commissaria europea Cecilia Malmström. Dice questo: Malmström a marzo ha inviato una lettera alle autorità italiane dando la disponibilità della commissione per verificare quali altre misure concrete possano essere messe in campo, e parliamo naturalmente di immigrazione, ma non abbiamo ricevuto indicazioni precise. Ministro, non avete dato indicazioni a Bruxelles? Ci sono quattro indicazioni precise che noi abbiamo sempre dato in tutte le riunioni e in tutti i contesti a Bruxelles, e sono queste. La prima: accoglienza umanitaria in Africa. L'Europa deve andare lì, perché lì ci sono centinaia di migliaia di persone, di profughi, di gente che scappa da guerre, specificamente in Libia. E allora è lì che la comunità internazionale, come è riuscita ad intervenire contro Gheddafi, deve riuscire a intervenire per l'assistenza umanitaria. Ed è l'Africa, la Libia, il luogo dove l'Europa deve intervenire. Per chi parte poi c'è il mare, c'è il transito del Mediterraneo. Allora la seconda richiesta è che il soccorso in mare lo deve fare l'Europa attraverso Frontex. Le navi della Marina Militare Italiana sono navi che sono sul bilancio dello Stato imputate, costano 300.000 euro al giorno le operazioni di soccorso in mare dell'operazione Mare Nostrum. L'Europa venga nel Mediterraneo a salvare dalla morte quelli che attraversano il Mediterraneo. Quindi la prima richiesta è assistenza ai profughi, l'assistenza umanitaria in Africa. La seconda richiesta è che Frontex agisca al posto dell'Italia con un intervento mettendo bandiera europea sulle navi attraverso Frontex. La terza richiesta è che Frontex abbia una sede in Italia, perché il fatto che oggi la sede sia a Varsavia fa capire che il problema della frontiera europea è ancora considerato come un problema tra l'est e l'ovest del mondo. E infine, elemento importantissimo, siccome i migranti che arrivano in Italia non vogliono lavorare in Italia, anche loro sanno che c'è disoccupazione in Italia, questi migranti devono avere la possibilità che l'asilo politico venga dato a loro anche da tutti gli altri paesi d'Europa, nel senso che il riconoscimento glielo possiamo fare noi in Italia, ma loro devono poter esercitare il loro diritto di asilo politico, perché se scappano dalla guerra in Siria e dalla crocifissione in Siria ne hanno bisogno, lo devono poter esercitare anche negli altri paesi d'Europa, perché se questo viene negato significa che questi arrivano in Italia, vogliono andare in Svezia o in Germania, noi gli diamo l'asilo in Italia e trasformiamo, se non possono andare via, l'Italia nella prigione dei rifugiati politici. Senta, questo per noi è inaccettabile. Questi sono i quattro punti. Ci può assicurare, perché dalle dichiarazioni che vediamo, insomma, l'Europa sostiene di no, che queste indicazioni alla Malmstrom sono state trasmesse? Noi abbiamo sempre detto queste cose in tutti i contesti e in tutti i consessi internazionali. Abbiamo promosso a ottobre una task force mediterranea che ha dato alcuni esiti e questi esiti non sono portati avanti. Tant'è che il portavoce della Malmstrom non parla di Europa, giustamente dal suo punto di vista, ma dice tutto quello che è stato richiesto e che era nei limiti delle competenze della Commissione è stato fatto e messo in campo. Quindi loro evidenziano una distinzione di responsabilità tra il governo dell'Europa, che si chiama Commissione, e le responsabilità dei singoli Stati. E allora noi non consentiremo che nessuno, neanche a livello di rapporto tra Commissione europea e singoli Stati, giochino a scaricabarile, facendo sì che poi il conto lo paghi l'Italia. Per cui, se ci sarà da andare dalla Malmstrom, io ci andrò anche domani mattina e invece di scrivere letterine le andrò a dire chiaramente in faccia quali sono le nostre quattro richieste. Poi vedremo se la competenza è della Commissione oppure se la competenza è dei singoli Stati, perché se i singoli Stati e la Commissione giocano a scaricabarile, allora la Commissione è in scadenza e ci dice che siccome è in scadenza non può fare tutto quello che vorrebbe fare, oppure ci dice che queste sono competenze dei singoli Stati, non siamo nati ieri e sapremo rappresentare con forza le ragioni dell'Italia. Se il problema è spedire letterine, invece di spedire letterine domani prendo un aereo e ci vado io a Bruxelles. Lo fa? Sono prontissimo. Prontissimo. Senta, sul fronte invece dell'operazione Mare Nostrum, che sta subendo una serie di critiche, le dico l'ultima di Matteo Salvini, che dice che Renzi è complice dei morti di ieri. Salvini deve mettersi d'accordo con se stesso. Lui è per chiudere l'operazione Mare Nostrum e quindi se versa lacrime per i morti di ieri sono lacrime di coccodrillo. Quelli che con una ipocrisia inaccettabile ci dicevano di sospendere il soccorso in mare sono gli stessi che oggi piangono quei morti nel Mediterraneo. Noi siamo gli unici che hanno un approccio concreto, realista, che protegge l'Italia, protegge la frontiera e salva le vite umane, perché noi non siamo pronti a scambiare 25.000 morti in mare per lo 0,5% alle elezioni europee. La nostra linea è molto chiara: intervento in Africa, monti l'Europa le tende in Africa, le monti in Libia e faccia assistenza lì. Dopodiché, per quelli che partano, l'Europa, noi aiuteremo l'Europa. Sì, ma sia l'Europa con Frontex a issare bandiera e mettersi lì in mezzo al Mediterraneo. Terzo, una sede di Frontex in Italia. Quarto, possibilità che l'asilo sia esercitato in tutta Europa, perché quelli che hanno diritto d'asilo politico in Italia, arrivano in Italia, noi glielo diamo e vogliono andare in Svezia, devono poterci andare, altrimenti l'Italia diventa la prigione dei rifugiati politici che vogliono andare in Europa. L'ultima domanda che le voglio fare, portandola su un altro argomento, il tema dell'Expo e dell'inchiesta di queste ore, basta un controllo da parte della task force, che tra l'altro da quel che abbiamo letto non può entrare sui singoli appalti? Guardi, noi abbiamo fatto una straordinaria azione di prevenzione della infiltrazione criminale, sto parlando di tutta la azione per assicurare che l'Expo sia mafia free. Sono state escluse già 33 aziende, ci sono stati accessi ispettivi, cioè controlli in 66 cantieri, sono stati controllati soggetti per almeno 2.400 soggetti controllati, sono stati controllati 1.124 mezzi, sono state realizzate sono stati realizzati degli sforzi enormi con fascicoli per la certificazione antimafia valutati a migliaia e migliaia e 221 di white list competenza della prefettura di Milano sono stati approvati, oltre 300 dalle altre prefetture, tutto questo è uno sforzo di prevenzione. Evidentemente c'è ancora dell'altro da fare e su quell'altro, mi riferisco alla corruzione, occorrerà che questa task force sia dotata di tutti i poteri possibili per accendere un riflettore ancora più luminoso sulla questione che riguarda esattamente la lotta alla corruzione. Quindi una possibilità di ispezione anche sui singoli appalti, dice lei. Questo tecnicamente bisogna vedere come farlo senza violare le leggi. Di certo noi abbiamo fatto un'azione però di andrebbe fatto. Andrebbe fatto tutto quello che c'è da fare per assicurare la prevenzione, anche perché l'obiettivo è un Expo mafia free, ma anche mazzetta free. Non deve essere solo mafia free, ma anche mazzetta free. E dunque, per essere un Expo libero dai condizionamenti criminali e libero dalle mazzette, noi dobbiamo fare ogni sforzo anche con questa task force anticorruzione. La sostanza è che noi dobbiamo presentarci l'anno prossimo con una vetrina pulita e cristallina davanti al mondo intero attraverso l'Expo, che non può essere un'occasione mancata. Grazie Angelino Alfano, Ministro dell'Interno, buona giornata. Grazie a lei. Grazie a tutti i radioascoltatori. Saluto Michela Spera, responsabile FIOM del settore elettrodomestico. Buongiorno. Buongiorno a voi. Bentornata anche a lei, è stata già ospite anche lei di Effetto Giorno, per parlare del fatto che nella notte si è raggiunta un'intesa su Electrolux, che immagino che ha visto anche la vostra firma, cioè immagino che la valutiate positivamente. Certo, stanotte è stato, con la presenza dei segretari generali di FIM, FIOM e WILM, è stato superato proprio uno scoglio insidioso e difficile per la vertenza Electrolux ed era sostanzialmente trovare una soluzione condivisa tra le organizzazioni sindacali nel rapporto con l'azienda di come si interviene per ridurre il costo del lavoro salvaguardando condizioni e salario dei lavoratori. Questa notte è stato possibile trovare su questo una soluzione condivisa. Da oggi pomeriggio ci ritroviamo con la delegazione trattante e con l'azienda per cominciare a scrivere dei testi che sono complicati, perché l'accordo Electrolux e la vertenza Electrolux si occupa di investimenti su tutti gli stabilimenti e di piani industriali per tutte le linee di prodotto, si impegna a salvaguardare l'occupazione, quindi da oggi fino a domani noi siamo impegnati nella stesura dei testi. Domani torniamo al Ministero dello Sviluppo Economico per concludere il confronto e nella giornata di giovedì è prevista la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo alla Presidenza del Consiglio. Quindi una buona notizia. Grazie Michela Spera, responsabile FIOM settore elettrodomestico. Pausa e poi la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Scontro tra la Commissione europea e l'Italia sull'immigrazione. Bruxelles dice il Roma ci dica che cosa vuole. Alfano, intervenuto poco fa, Effetto Giorno, dice ci sono quattro indicazioni precise e che noi le abbiamo sempre date in tutte le riunioni a Bruxelles. Renzi a Milano per Expo, si fermano i ladri, non le opere, contestazione dai comitati per la casa e sul fronte dell'inchiesta arrivano le prime ammissioni dagli arrestati. Servizio civile per 100.000 giovani l'anno, questa è una delle proposte del governo nell'ambito della riforma del terzo settore. È il momento della borsa. Borse in diretta. Ciao Condina, Radio Cori, il Sole 24 Ore. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. In calo il FTSE MIB, -0,77, FTSE Share altrettanto negative, o meglio no, in realtà positiva, il resto d'Europa, +0,17, Parigi, Francoforte guadagna lo 0,6, Londra lo 0,13. Come mai va male la borsa di Milano? Ma guarda, oggi di sì sono stati particolarmente volatili, anche Parigi e Francoforte erano scesi leggermente sotto la parità a metà mattinata dopo l'indice ZEV della fiducia tedesca che era negativo. Milano va male, trascinata al ribasso da alcuni titoli bancari ma soprattutto da Telecom e da Campari, entrambi perdono oltre il 4% dopo la diffusione dei dati trimestrali. Per quanto riguarda i singoli titoli, cose particolari da segnalare? Ma guarda, direi sicuramente Telecom e Campari. Per Telecom dei dati in chiaroscuro, nonostante l'indebitamento finanziario netto sia risultato superiore alle attese. Peggio ha fatto Campari, che ha sostanzialmente deluso il consensus su tutti i principali indicatori di bilancio. Infatti entrambi i titoli oggi, subito dopo la diffusione dei conti, hanno perso il 4%. Per contro, in cima al listino c'è Prismian, che fa +2,7%, prova il rimbalzo, ma ricordiamo che nelle ultime 4 sedute ha perso complessivamente il 15%. Grazie a Ciao Condina di Radio Cori, il Sole 24 Ore, buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Tra le proteste degli studenti sono andati in scena per così dire i test Invalsi. Un foglio bianco con sopra una X nera tenuto davanti al volto. È questo il simbolo scelto da alcuni gruppi di studenti per protestare contro i test Invalsi, le prove che dovrebbero misurare in modo standard le conoscenze di italiano e matematica degli alunni d'Italia. Stamattina era il turno delle seconde superiori, ma in tutto il paese non sono mancate le ribellioni. A guidare la mobilitazione, l'Unione e la Rete degli Studenti. La prima protesta di cui si ha notizia è a Latina. Seguono i licei Tasso e Virgilio di Roma. Prima delle 10, striscioni anche a Catania e a Torino, presidio a Pisa. A Milano boicottaggio in 20 scuole e corteo fino al Teatro Lirico di Via Larga, occupato ieri. Bersaglio delle critiche, spiega Francesco Vigone di Rete Studenti Milano, i quiz a crocette. Il ruolo fondamentale della scuola è quello di creare individui critici che sappiano essere futuri cittadini all'interno di questo paese. Ecco, i test Invalsi non fanno assolutamente questo, in quanto sono solo semplici nozioni. Lucia Maffei, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sergio Ortelli, sindaco del Giglio, buongiorno. Buongiorno, bentrovati, buongiorno. Ben trovato a lei, in realtà non tanto ben trovato nel senso che la chiamiamo per quella che potrebbe essere una brutta notizia, nel senso che il galleggiamento della Concordia viene spostato a piena stagione già straavviata, stagione estiva, stagione balneare per così dire, 18-20 luglio più o meno, abbiamo capito bene? Sì. Mi correggerei dicendo che non è una brutta notizia, ma è una notizia per cui va presa un po' per come è stata formulata. Lei si ricorderà senz'altro che qualche tempo fa dissi che i lavori avrebbero avuto due tipi di variabili che potevano incidere sul cronoprogramma, quindi sulle scadenze, sui termini di tempo, e uno tra questi appunto sono le condizioni mete marine, l'altro i problemi, le implicazioni di carattere tecnico, come è accaduto appunto qualche giorno fa. Quindi oggi ci forniscono questa tempistica, ma è una tempistica progettuale, quindi dobbiamo vedere nell'evolversi dei lavori cos'altro potranno. Lei non si fida di questa tempistica, sindaco? Non mi fido, non ho mai avuto grande simpatia per i tempi, i 26-27 mesi che hanno accompagnato questa brutta vicenda chiaramente insegnano molto, quindi è una tempistica fornita perché è giusto ed è corretto che debba essere fornita e comunicata da Costa Crociere, in quanto c'è un progetto in corso, c'è una lavorazione in corso, ma temo che non sia credibile, però è un mio parere personale. Si andrà a finire dopo l'estate secondo lei? È un'idea che mi sono fatta, però sinceramente ecco, io ho sempre un principio fondante che è quello di portare la nave via prima possibile, però capisco che è una impressione anche la mia, un'impressione teorica che va chiaramente valutata dal punto di vista tecnico. Comunque anche questa stagione estiva è andata dal punto di vista del turismo? Secondo me è andata, anche se molto frenata la stagione, probabilmente frenata anche non solo dall'evento della Concordia ma anche dalla crisi economica. Noi certo stiamo tentando di ripartire, ma lo possiamo fare solo quando la nave ci avrà abbandonato, il relitto ci avrà abbandonato. Quanto è costato alla comunità del Giglio tutto questo? Dal punto di vista turistico, dico naturalmente. Ma è costata in due sensi. Uno dal punto di vista economico, con un piccolo indotto sul fronte di Giglio Porto per la presenza degli operatori, ma con una grande crisi per tutta la parte rimanente dell'isola, che è il 70-75%. Quindi Giglio Castello, Giglio Campese sono rimasti un po' al palo. E non c'è solamente la crisi economica, c'è anche questo sconcerto dovuto alla presenza del relitto lì davanti, anche se le condizioni del mare sono ottimali, è l'isola forse più monitorata del mondo, è l'isola che ha il mare più pulito del mondo, proprio perché è controllato, e nonostante ciò c'è ancora una paura, una preoccupazione da parte del mercato a venire sull'isola, che ripeto è rimasta assolutamente intatta sotto il profilo ambientale. Grazie Sindaco Ortelli, e a risentirla immagino. Grazie nei prossimi mesi. Buona giornata. Fa già discutere una sentenza della Corte di Giustizia Europea che ritiene responsabili anche i motori di ricerca del trattamento di dati personali non pubblicati da loro ma da terzi. Nel 2010 lo spagnolo Mario Costeja González aveva fatto causa contro il quotidiano La Vanguardia e contro Google perché, facendo una ricerca col suo nome sul motore di ricerca, venivano visualizzate alcune pagine del quotidiano online di 12 anni prima relative ad una vendita all'asta di immobili organizzata a seguito di un pignoramento effettuato per riscuotere crediti previdenziali nei confronti dell'uomo. González riteneva però che dopo 12 anni la vicenda dovesse essere dimenticata, cioè, come si dice in gergo, avere diritto all'oblio. Ora i giudici di Lussemburgo dicono che il gestore di un motore di ricerca su internet è responsabile del trattamento effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi e quindi deve, su richiesta, rimuovere un link come quello che puntava alle notizie relative a González. Tuttavia, poiché la soppressione di un link dall'elenco dei risultati potrebbe, a seconda dell'informazione, avere ripercussioni sul legittimo interesse di tutti gli utenti della rete internet, i giudici constatano che occorre sempre ricercare un giusto equilibrio tra questo interesse, il diritto al rispetto della vita privata, e quello alla protezione dei dati personali. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Infine, gli aggiornamenti sulla vicenda delle ragazze rapite in Nigeria. Si terrà sabato a Parigi il summit sulla sicurezza in Nigeria, voluto dal presidente François Hollande. Si occuperà della rete terroristica dei Boko Haram e vi prenderà parte anche Goodluck Jonathan, presidente dello Stato nordafricano, mentre si attende ancora la conferma dei 4 paesi confinanti, Benin, Camerun, Chad e Niger. Intanto è trascorso ormai un mese dal rapimento delle ragazze nigeriane. Il 14 aprile scorso le circa 300 studentesse sono state portate via con la forza dalla scuola di Kibok, nello stato nordorientale del Borno. Una cinquantina è riuscita a fuggire subito dopo, mentre le altre sono ancora nelle mani dei terroristi con la minaccia di essere venduti come mogli o schiave. Ieri i loro volti, con lo sguardo perso nel vuoto, hanno fatto il giro del mondo attraverso il video diffuso in rete dagli estremisti islamici. Le hanno mostrate mentre recitano i versetti del Corano avvolte dal khimar, una lunga tunica che nasconde le forme e lascia scoperto solo il volto. Ma il gesto dei Boko Haram non è solo simbolico contro l'educazione occidentale, è anche pratico. Chiedono soldi e prigionieri in cambio della liberazione delle ragazze, un compromesso che il governo di Abuja non intenderebbe accettare. Marisa Labanca, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, vi devo dire, ci sono alcune notizie diverse fra loro, ma tutte molto interessanti questa mattina orario di New York, naturalmente, che dominano un po' sulle televisioni, sulla stampa. Intanto la reazione della Russia al referendum ucraino, non si capisce dove si andrà a parare. La posizione americana su questo è molto chiara: c'è timore che alla fine si andrà a una posizione di rottura, anche perché le elezioni in Ucraina sono fissate per il 25 maggio e Mosca, come sappiamo, cercherà di evitare che queste elezioni possano avere credibilità, per cui è una situazione in evoluzione, la continuerete a seguire sulla nostra radio, un'evoluzione che va avanti di ora in ora. Ma ha colpito un'altra notizia, devo dire, molto interessante, molto importante, l'ha anticipata il New York Times, o meglio, il New York Times ha anticipato dei rapporti scientifici che usciranno formalmente nel giro di qualche giorno, in particolare un rapporto di Tom Wagner della NASA, secondo cui la calotta polare dell'Antartide è ormai in una fase di disintegrazione irreversibile. Ecco, questo si tradurrà in un aumento del livello del mare fino a 3 metri, e questo significa che gran parte delle nostre coste saranno sommerse. In quanto tempo? Beh, il tempo è lungo, gli scienziati parlano di un centinaio d'anni, un secolo, anche se, come diceva il vecchio Adam Smith, visto che qui ci vorranno 100 anni perché la cosa si verifichi, nel lungo termine saremo tutti morti. Ecco, sentite questo coro di ragazze, questa è la notizia in realtà a cui vorrei dedicare la gran parte della trasmissione, perché è quella che mi ha colpito, me ne sono occupato nel fine settimana quando Michelle Obama è intervenuta direttamente in questa tragedia delle ragazze, oltre 250 ragazze rapite in Nigeria. Per la prima volta ieri un video ha portato le voci di queste ragazze, per la prima volta si sono viste in condizioni apparentemente buone, avevano un abito tradizionale di ispirazione islamica, generalmente grigi, ma avevano il volto scoperto. Non è stato possibile capire se i parenti le riconoscessero, perché hanno detto da questo minuscolo paesino dove il rapimento si è compiuto, a Chibok, nella notte, in questa scuola dove le ragazze dormivano, ecco, i parenti, i genitori, gli amici hanno detto che non hanno elettricità, non hanno televisione, non sono stati in grado di vedere questo video. Video che mostra, vi dicevo, queste ragazze, le avete ascoltate, che pregano. Alcune di loro dicono di essersi convertite dal cristianesimo all'Islam. Vi ricordo, queste ragazze erano delle ragazze cristiane. E soprattutto il video porta anche un messaggio di Abu Bakr Shekau, che è il leader di questo movimento islamico Boko Haram, che vuole, pensate, riportare la Nigeria al califfato, vuole riportarla indietro di qualche centinaio d'anni, vuole riportarla al dominio del Corano. E dunque è stato proprio Abu Bakr Shekau ad aver parlato poi subito dopo queste ragazze. Sentiamolo. Ecco, questa è la voce di Abu Bakr Shekau. Non sappiamo se le immagini delle ragazze siano davvero quelle delle ragazze rapite, che mancano, vi ripeto, sono le prime immagini che abbiamo dal 4 di aprile, quando ci fu il rapimento. Cosa dice? Beh, intanto è molto minaccioso, cioè che queste ragazze saranno vendute in schiavitù, non ci sarà alcun dubbio. Cioè, voi vi scandalizzate, voi vi preoccupate per queste ragazze che sono state rapite, questo villaggio di Chibok improvvisamente diventa così un villaggio simbolo. Ebbene, ricordatevi che ci sono i nostri fratelli che sono vostri prigionieri, i nostri combattenti che sono nelle vostre prigioni. Qui si rivolge naturalmente alla leadership nigeriana e chiede la liberazione di questi prigionieri, chiede dunque un baratto. Non sappiamo come reagirà il governo nigeriano, ci sono indiscrezioni secondo cui sono stati avviati in effetti dei negoziati, potrebbe trovarsi un punto di compromesso, perché la questione diventa importantissima per il governo nigeriano, per dimostrare credibilità, per dimostrare la possibilità di recuperare sane e salve queste ragazze. Il messaggio del leader del movimento Boko Haram è anche rivolto, secondo me, a Michelle Obama, all'America, alla Casa Bianca. Perché? In these girls, Barack and I see our own daughters. We see their hopes and their dreams. Vi dicevo, Michelle Obama si è impegnata in prima persona, ha avuto lo spazio del tradizionale discorso del sabato del marito, Barack, per celebrare la festa della mamma, il giorno della mamma, che era domenica, e ha parlato proprio di questa vicenda, di questa terribile vicenda nigeriana. Dice: sia io che Barack vediamo in queste ragazze le nostre figlie Sasha e Malia, che sono vicine all'età di quelle rapite. Conosciamo i loro sogni, le loro ambizioni, non possiamo immaginare l'angoscia dei loro genitori, dei loro parenti. La First Lady americana ha detto che il marito si è impegnato a fare di tutto per cercare di liberarle, ha mandato dei consiglieri, ma nel suo discorso ne ha approfittato per ricordare come la causa per l'emancipazione della donna ha portato sia grandi conquiste in America e in Occidente, ma lo stesso dice non succede in troppi paesi, sottolinea che ci sono 65 milioni di ragazze nel mondo che non possono andare a scuola, che non possono crescere e vivere la loro vita. Poi ha detto ci sono ragazze come Malala Yousafzai, cui i talebani hanno sparato in Pakistan solo perché diceva di voler imparare. Malala era su un autobus quando un gruppo di talebani è salito a bordo e le ha sparato, pensate, un colpo di pistola alla nuca per punire le sue violazioni del codice islamico, cioè semplicemente che voleva studiare. Si è salvata per miracolo, si è poi incontrata l'anno scorso con Michelle Obama, che ha voluto ricordare sempre in questo discorso le sue parole in un discorso che ha fatto alle Nazioni Unite. I terroristi, dice Malala, credevano che avrebbero cambiato le nostre aspirazioni, le nostre ambizioni, ma niente è cambiato nella mia vita se non una cosa. La debolezza, la paura e il senso dell'impossibilità di una battaglia sono morti per far nascere la forza, il potere e il coraggio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di Michelle Obama, di questo messaggio per la liberazione di queste ragazze. Vorrei ricordare Whitney Houston, che conosceva Michelle Obama e che sicuramente l'avrebbe pensata come lei. E dunque ascoltiamola in una bellissima interpretazione di I Am Every Woman, io sono ogni donna, una donna che si vuole realizzare, una donna che vuole andare avanti. Whitney Houston, I Am Every Woman. I can cast a spell, secrets you can't tell, mix a special group with fire inside of you. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. I ringraziamenti Filippo Aureggi in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Effetto Giorno @radio24.it per scriverci, il mio account Twitter Simone Spezia, c'è anche la nostra pagina Facebook. Ci risentiamo tra un attimo con GR24. Effetto Giorno torna domani alle 13:00.